Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio ed eccoci alla partita chiave del girone dell'Italia, quella con la Croazia. Cesare Prandelli lo sapeva da tempo, per la verità. Ho sotto gli occhi il testo, non la voce purtroppo, ma il testo di un'intervista rilasciata il 15 dicembre dello scorso anno, in cui diceva testualmente: attenti alla Croazia, è sottovalutata nei giudizi della critica, è un'ottima squadra, invece sarà quella la nostra partita più difficile. E quindi insomma, diciamo che sin da dicembre Prandelli aveva le idee chiare. L'Italia deve vincere, la Croazia può invece anche pareggiare, e basta questo a rendere ancora più complicata una partita come questa, che già lo è di suo. Sentiamo ancora Prandelli, stavolta di pochi minuti fa ai microfoni Rai. Perché abbiamo veramente un grande rispetto per questa squadra e secondo me anche un piccolo vantaggio non glielo possiamo concedere. Fino all'ultimo anche noi dobbiamo aspettare la loro formazione, nei 20 minuti prima della gara dobbiamo fare marcature, dobbiamo rivedere un po' le posizioni, quindi anche noi vogliamo avere questo piccolo vantaggio. La squadra si è preparata molto bene, consapevole di affrontare una squadra molto organizzata, una squadra che anche durante la partita può cambiare un sistema di gioco. La Spagna ti costringe a contenere, poi una squadra decide dove contenere questa Spagna. Noi abbiamo cercato di farlo per 70 minuti e abbiamo fatto, secondo me, una grande partita, l'abbiamo contenuti molto alti. Contro questa squadra è diverso, perché questi sanno giocare in profondità, questi sanno giocare al calcio e hanno più armi. Questi secondo me hanno qualcosa in più da un punto di vista organizzativo. Bisogna avere la concentrazione giusta per questa partita e sono convinto che questa Italia ce l'ha. 800 24 00 24, come sempre, e questo è il numero per i vostri interventi in diretta. L'argomento di oggi potrebbe essere: è giusto giocare con gli stessi 11 di domenica che hanno affrontato e bene la Spagna? Ha appena ricordato Prandelli, per 70 minuti è una grande partita, e poi una flessione finale. O sarebbe meglio invece cambiare qualcosa? Se anziché il nostro numero verde preferite l'SMS, sapete anche che è il 349-238-6666. Tenete conto che cambiare non sempre porta buono. Allora Franco Piantanida, che si sta scatenando ogni giorno di più, è andato a studiare nel passato degli europei come è andata a finire quando l'Italia ha cambiato in particolare in attacco tra la prima e la seconda giornata. Bene, i due casi più recenti di cambi sono nel 2004 con Trapattoni in panchina e prima ancora nel 96 con Sacchi. Quello di Sacchi addirittura fu un caso abbastanza clamoroso, perché dopo la prima partita vinta con la Russia, avendo in attacco Del Piero, Zola, Casiraghi e due gol di Casiraghi, con la Repubblica Ceca cambiò interamente la linea offensiva, schierando Ravanelli e Chiesa insieme a Donadoni. Morale: vittoria della Repubblica Ceca e eliminati dal girone, esattamente come accade poi nel 2004 anche a Trapattoni. Altri precedenti più vecchi sono invece meno significativi, perché allora si giocavano, c'erano poche partecipanti. Insomma, Euro 68 cambiò robustamente Valcareggi tra l'una e l'altra partita, però è anche vero che di partite se ne giocavano due, perché la fase finale era a 4 e non a 16 come adesso. Sostiene Prandelli, in attesa appunto dei vostri interventi, dei vostri messaggi, sostiene Prandelli, ha sostenuto ieri di avere ancora un dubbio, cioè soltanto un dubbio per un potenziale cambio. Sentiamolo. Secondo me troveremo delle difficoltà. Dobbiamo stare in partita, dobbiamo essere capaci di leggere la situazione di gioco, perché abbiamo la qualità, abbiamo le armi per poter vincere la partita. Non ho tanti pensieri da un punto di vista dei cambi, ne ho solo uno. Ne ho solo uno, e allora è ovvio che in questi casi si scatenano, gli indovinelli, no? Che poi tra poco si scatenano anche qui. Adesso scatenano magari è un po' eccessivo, diciamo che diventa un po' il leitmotiv della vigilia. Dov'è questo cambio potenziale? È in attacco o in un altro settore? Io non credo che sia in attacco, personalmente. Credo che questo dubbio possa riguardare, semmai, dovessi fare una piccola puntatina, io la farei sul centrocampo, e penso che, così come Thiago Motta era un giocatore non dico chiave, ma insomma era un giocatore molto prezioso anche perché è abituato al gioco del Barcellona, avendoci militato qualche anno fa, era giocatore ideale per una partita tattica a metà campo con cadenze non particolarmente alte, ma la palla che corre. Con la Croazia forse un giocatore un po' statico come lui potrebbe essergli preferito un incursore come Nocerino, ma questa è una delle tante possibilità che Prandelli ha a disposizione, perché può anche decidere invece che come esterno di sinistra vuole uno che sia un po' più difensore di Giaccherini, e quindi magari potrebbe puntare su Balzaretti. Non credo Abate a destra al posto di Maggio, anche perché Abate ieri meglio che niente si è fatto 5 punti di sutura in uno scontro aereo con Nocerino, proprio tra l'altro una cosa tutta milanista. E insomma, morale, vediamo anche voi che cosa pensate di tutte queste possibilità. Ho parlato di Thiago Motta, che mi sembra avere idee abbastanza chiare su che cosa significa oggi il risultato di questa partita. Credo che è una partita importante perché giochiamo quasi la qualificazione. Credo che la squadra che vince dà un passo importante per la qualificazione. Adesso siamo preparati, abbiamo preparato molto bene questa partita per affrontare una grande squadra, però siamo convinti che riusciremo a fare una grande partita. Segnare, credo che abbiamo creato contro una grandissima squadra, una squadra difficile da giocare, però sicuramente quando abbiamo l'opportunità dobbiamo segnare, perché così la partita possiamo portarla in avanti un po' più con tranquillità. Vediamo le prime risposte che arrivano. Meglio Nocerino che Motta con la Croazia, scrive un ascoltatore. Alessandro da Udine dice schierare Di Natale subito. Beh, qui insomma è una candidatura di bandiera, direi, no? Visto che arriva da Udine, perché Balotelli è inaffidabile. Purtroppo è sempre così, riflette Marione Scalia: se cambi e vinci sei un genio, se cambi e perdi sei un incapace. Mario domanda, dice, secondo voi come mai gente come Grosso, Totti, Cannavaro, Del Piero non hanno partecipato all'Europeo? Beh, Mario, perché non ha partecipato neanche Piola, Meazza, Rivera, no? E quindi lei mi sta citando per persone, come dire, un po' superate per questi livelli, che non sono solo livelli tecnici, perché sennò sarebbe diverso, sono anche livelli agonistici, e lo si è visto anche nelle partite di ieri, perché poi arriveremo a Germania-Portogallo, cioè a Germania-Olanda, chiedo scusa, e a Danimarca-Portogallo. Portogallo-Olanda sarà arbitrata da Rizzoli, ecco, questa è una notiziola appena uscita. Tocca a Rizzoli dirigere la partita Portogallo-Olanda, in programma lunedì 17 alle 20:45. Per il fischietto italiano si tratta della seconda partita dopo l'esordio avvenuto con Francia e Inghilterra, esordio ampiamente positivo, tant'è vero che questo spiega la riconferma. Danimarca-Germania invece per lo spagnolo Carbaglio. Gomez mi sembra proprio un ottimo giocatore, scrive Lucio, tecnicamente è cresciuto molto. Che ne pensa per il nostro campionato? Ma penso che stia bene lui al Bayern, e che soprattutto il Bayern non abbia alcuna intenzione di mollarlo. C'è anche un Mario o un Super Mario che fa gol, insomma, no? Se pensiamo a ieri sera, di cognome fa Gomez e non fa Balotelli. E poi invece sarebbe bello magari domani ripetere questa frase cambiando cognome, lasciando inalterato il nome e cambiando il cognome. Certo, molto bello, non impossibili, abbastanza elementari per un attaccante come lui, ma belli i due gol di ieri sera, le due esecuzioni, entrambe su assist di Schweinsteiger, entrambi con il tempo di controllare il pallone, perché la difesa olandese era molto aperta in quel disastroso primo tempo che ha giocato, prima poi di rimettersi un pochino in asse con i cambi e con gli ingressi di Van der Vaart in particolare, ma anche di Huntelaar. Ma certo, soprattutto il controllo sul primo gol di Mario Gomez è stato davvero eccellente. Un'altra riflessione, un altro spunto, che è questo, è statistico, quindi ritorna in causa Franco Piantanida. Vi ricordate lo sciagurato pallone del mondiale sudafricano, quel famigerato Jabulani, insomma si pronunciava in mille modi, insomma, comunque era quel pallone che volava come una farfalla e che aveva, io dico falsato, ma non lo dico solo io, hanno detto in tanti, falsato o comunque O comunque è pesantemente condizionato l'andamento di molte partite. La riprova arriva da un dato. Su 145 gol che si erano assegnati in quel mondiale sudafricano, 33 erano arrivati da tiri da fuori area, e quindi il 22% del totale, una percentuale molto alta per una manifestazione come un mondiale o come un europeo, cioè per una rassegna del massimo livello. Perché? Ma perché i palloni volavano e quindi tutti ci provavano da fuori. Qui finora, sui 33 gol segnati in questo europeo, 3 soli gol sono venuti da fuori area, che rappresentano il 9% del totale. Quindi, e in effetti, se notate, da fuori si tira molto meno, anche perché anziché lo Jabulani, è tornato un tango, che è uno storico nome per palloni, e questo tango mancava dal 1988. Questa nuova versione di tango, questo tango rivisitato, è un pallone indubbiamente più credibile. Altro dato, altra conferma indiretta, ma forse invece anche diretta. Molti più gol di testa in questo europeo. Di testa, con quel pallonaccio sudafricano, era quasi impossibile colpire, perché i cross volavano e quando arrivavi a impattare con la fronte, difficilmente riuscivi a beccarla bene, perché per l'appunto le traiettorie erano imprevedibili. Davide ha chiamato da Imperia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io la chiamavo ovviamente in merito al dubbio di Prandelli. E niente, mi faceva piacere pensare che il suo dubbio non sia né davanti né in mezzo, ma dietro. Dietro, quindi, magari mettendo un difensore e non De Rossi, spostando De Rossi al posto di Thiago Motta, anche perché la Croazia gioca con delle punte magari vere rispetto, diciamo, alla Spagna che giocava con Fabregas e così. Quindi magari De Rossi potrebbe trovarsi magari un po' peggio, cioè potrebbe trovarsi male, scusi, nei confronti di queste vere punte. E niente, pensavo a un Ogbonna che è giovane, che è sinistro come Chiellini, però insomma mi faceva piacere pensare a una cosa del genere. Non credo, Davide, perché lei non sta parlando di cambiare una pedina, lei sta parlando di cambiare modulo, e io non credo che Prandelli cambierà modulo a distanza di 4 giorni da una partita, visto che il modulo ha funzionato. È vero che la partita si prospetta completamente diversa, molto diversa insomma da quella giocata contro la Spagna, ed è vero che quel modulo era stato costruito per giocare contro la Spagna. Apparentemente, in realtà era stato costruito sia per giocare contro la Spagna che per non fare più la fine che l'Italia aveva fatto contro la Russia, e quindi, dato che poi i ribaltamenti di fronte, il possesso di palla eccetera lo sanno fare anche i croati, io credo proprio che un cambio di sistema di gioco sia discretamente da escludere, e che le uniche variazioni possibili siano quelle che più o meno si sono affacciati, quindi non penso, ecco. Io continuo a credere che magari quelle che abbiamo detto fino adesso, e cioè Nocerino per Thiago Motta piuttosto che Balzaretti per Giaccherini, piuttosto che Di Natale per Balotelli o Cassano in alternativa, siano magari cambi che verranno operati in corsa, ma De Rossi parte, per il momento parte certamente in quella posizione. Se l'Italia riuscisse a qualificarsi già sin da stasera, cosa che peraltro è impossibile, allora forse Prandelli potrebbe pensare di tornare alla difesa a 4 nell'ultima partita del girone, che non conta, ma dato che questa eventualità è da escludere per via del pareggio nella prima partita, non credo che accadrà più per questo europeo. Stefano Verona, buongiorno. Buongiorno Parò Garanzini, ma sono di Pordenone. Pordenone, Stefano. Sono di Pordenone. Dica. E a proposito di pallone tango, da noi si dice speriamo di dare il tango stasera alla Croazia. Certo. Comunque, volevo dirle, non so se l'hanno già detto, il rallentamento di Balotelli su quell'azione lì, poi quando è stato sostituito, hanno detto che dal labiale hanno letto il labiale e si è capito che nessuno le ha chiamato il giocatore che gli stava arrivando dietro, recuperato da Sergio Ramos. Ma un attaccante che da nazionale deve aspettare che qualcuno li chiami il giocatore che gli sta arrivando dietro. Che no, poi... ma neanche un attaccante da interregionale o da promozione o da terza categoria. Se quando arriva solo davanti al portiere ha bisogno che gli chiamino l'avversario, cioè che gli segnalino che arriva, sta arrivando un avversario. Questa è evidente, insomma, se l'ha detto, se hanno letto i labiali, io sa, non amo particolarmente il trash nemmeno in campo, no? Quindi i labiali lascio perdere in genere. Ma se anche così è stato, beh, insomma, evidentemente era una scusa che Prandelli ha preso. Io le dirò, Stefano, che caro amico, che Stefano l'altro giorno, aveva risolto brillantemente il giallo, un suo omonimo, perché aveva scritto in questo messaggio, dice: per me Balotelli stava già pensando a come non esultare. E io sono assolutamente certo che questo milite ignoto, questo ascoltatore ignoto abbia azzeccato questo, la soluzione di questo, che rimane comunque un mistero. Nunzio ha chiamato da Napoli, buongiorno. Salve, buongiorno. Senta, volevo sapere una sua considerazione sulle scelte di Prandelli in attacco. Allora, stanno parlando tutti di questa staffetta tra Di Natale, Balotelli e Cassano, ma secondo lei non è meglio far partire i titolari Di Natale e far fare una staffetta fra gli altri due, visto e considerato come hanno finito il campionato, che Di Natale ha finito in crescendo mentre gli altri due nell'ultima parte dei loro campionati non hanno giocato tantissimo? All'ascolto. Grazie a lei, Nunzio. È una delle soluzioni possibili, credo sia una delle sia uno dei dubbi che ancora tormentano Prandelli in queste ultime ore, perché ormai li ha tenuti sulla corda abbastanza, io credo, no? Si gioca alle 6, sono quasi le 2:30, ma insomma, forse poi mettiamo pure che stiamo finendo il riposino, ma credo che al risveglio sarebbe poi, se non gliel'ha già detta in mattinata la formazione, sarebbe poi il caso anche di avvisarli adesso, no? I diretti interessati. E però questo certamente è uno dei dubbi, questi tre come farli ruotare, senza dimenticarne un quarto che è più piccolino, ma che anche lui mi sembra in forma eccellente. Sono sempre Mario, scrive Mario, evidentemente. Mi ricordo che nel 2006 gente come Totti, Del Piero, Grosso, Cannavaro e altri hanno vinto un prestigioso trofeo, sono maturati, quindi vuol dire esperienza. Ed è strano che Prandelli non li abbia convocati. Mario, sono surmaturati, non maturati, che è un concetto un pochino diverso, senza mancare rispetto a nessuno, ma insomma anzi avevano già i loro anni quando hanno vinto, quasi tutti, non Grosso per esempio, quando hanno vinto quel prestigioso trofeo che dice lei nel 2006, e insomma il 2012 è 6 anni dopo. Antonello, provincia di Olbia e di Tempio, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, io volevo dirle cosa ne pensa sulla mia opinione, che secondo me Di Natale può essere il nostro Schillacci. Di Natale può essere il nostro Schillacci. Sì, è vero, può esserlo benissimo, nella prima partita lo è stato, a parte l'omonimia, no? Nel senso di Totò come soprannome. E nella prima partita lo è stato, cioè è entrato lui e ha segnato un magnifico gol in coproduzione con una strepitosa giocata di Pirlo. Può essere, non ci sarebbe particolarmente da stupirsi. L'importante è che se deve emulare un adesso non dico un fenomeno, perché certamente Schillacci non lo è stato, ma insomma, se deve prendere un modello, un riferimento, prenda magari Totò Schillacci di quel mondiale e non prenda Cristiano Ronaldo di questo europeo, perché cosa ha combinato ieri Cristiano Ronaldo nella partita con la Danimarca non ha nome, veramente. È andata bene al Portogallo, ma è andata bene soprattutto a Cristiano Ronaldo. Io credo che questo Varela, questo ragazzino appena entrato, abbia risolto la partita a 3 minuti dalla fine, dopo che la Danimarca aveva pareggiato, e ha pareggiato per esclusiva colpa di Cristiano Ronaldo, che già era stata una palla al piede per la sua squadra per tutta la partita, ma si è mangiato 2 gol che non solo non ti puoi nemmeno immaginare che se li mangi Cristiano Ronaldo, ma nemmeno che se li mangi un attaccante molto ma molto meno forte di lui. Perché nessuno pensa a Giovinco, domanda Paolo, ma non è vero che nessuno pensa a Giovinco, secondo me ci pensano in tanti e credo che Prandelli sia proprio uno di questi, per esempio. Oh, prima di cedere la linea alla redazione economica, il Tribunale Distrettuale di Varsavia ha già giudicato per direttissima e condannato alcuni dei 184 hooligan protagonisti degli scontri e delle violenze a margine della partita di martedì Polonia-Russia. Le prime condanne hanno riguardato 8 teppisti, a 2 di essi sono stati inflitti 5 anni e 3 mesi di isolamento e sono stati immediatamente trasferiti in carcere, altri sono stati condannati a pene detentive anche fino a 12 mesi ma con la sospensione condizionale, tutti devono inoltre pagare un'ammenda di 500 zloty pari a circa 125 euro. Se avete sentito ieri la notizia dell'ultraggio novano o presunto tale che ha accoltellato, quindi che si è macchiato in un reato ben più grave, perché lì siamo al tentato omicidio volontario, e che è ancora a piede libero, capite bene che forse una qualche differenza c'è. Torniamo in onda e spostiamo adesso in parte l'ottica, nel senso che rimane sempre europeo il tema, l'argomento principale, ma lo spostiamo magari in una chiave un po' più televisiva. Perché? Perché anche ieri per Portogallo-Danimarca al pomeriggio circa 4 milioni di telespettatori, 6 e mezzo circa di nuovo, anzi 7 qualcosa di più la sera per Germania e Olanda, e quindi ascolti assolutamente eccellenti. Però leggevo stamane sul Sole 24 Ore in un'analisi firmata Daniele Lepido che in realtà questi ascolti sono in calo rispetto all'edizione 2008, quindi questo significa che erano ancora più seguiti 4 anni fa, e la cosa mi ha sinceramente sorpreso. Guardando i dati delle prime 10 partite, scrive Lepido sul Sole, il torneo sembra aver perso, sia pur di poco, un filo di mordente sui telespettatori. Nel 2008 le prime 10 partite erano state seguite in media da 6.424.000, oggi la media è di circa 300.000 spettatori in meno, che è poco, è un punto e mezzo soltanto di share in meno, comunque una flessione c'è. Se parliamo di qualità, la flessione forse è anche più pesante. E vabbè, allora il solito Franco Piantanida si è dilettato, oltre che di statistiche, si è dilettato di, come dire, di frammenti, no? E adesso ve ne proponiamo qualcuno. Primo minuto di Italia-Spagna, il telecronista Gentini. Un minuto, 0-0, partita tattica importantissima, è una partita a scacchi quasi, Beppe. Diciamo che gli scacchi si conoscono a memoria, nulla di quello che ci aspettavamo, ecco, in campo la disposizione tattica è quella che sapevamo, davanti lì dobbiamo fare attenzione a Fabregas, Iniesta bravo nell'inserirsi con la palla e Silva anche. Un minuto era già una partita tattica, che doveva essere dopo un minuto circa, poi da lì davanti si sarebbe scatenato Dossena, insomma possiamo ripeterle tutte, scatenato Dossena con la siamo perfetti, che a un certo punto qualcuno deve avergli detto in cuffia all'ottavo siamo perfetti, verso il quarto d'ora circa, che per quanto perfetti fossimo si poteva magari cambiare anche slogan, e da lì in avanti in effetti non. Però Dossena è uno che di immagini te ne regala sempre. Sentiamo quest'altra. Dobbiamo essere più cinici, più bravi, più cattivi. Quella palla lì dentro, davanti alla nostra luce di porta, non ci deve arrivare. La luce di porta. D'Amico, per carità, non è nuovo a prodezze dialettiche o comunque a prodezze di documentazione, ma questa Vincenzino, insomma, questa di Vincenzino è proprio carina. Qui rivediamo l'incertezza del portiere inglese. Ci abituati, comunque. Ricordiamoci quello che ha combinato in Sudafrica. Non è facile ricordare che cosa abbia combinato in Sudafrica, visto che Hart in Sudafrica fece il terzo portiere e basta, e quindi non avendo mai giocato, sì, potrà anche averne combinato qualcuno in spogliatoio o fuori campo, ma insomma in campo che risulti, no. Sentiamone un'altra, sempre dello stesso genere, e questa riguarda Portogallo-Danimarca ed è di Gianni Bezzi. Bentornato a Lisbona, è arrivato sulla panchina del Portogallo 2 anni fa al posto di Queiroz, quando Queiroz praticamente aveva fallito la qualificazione mondiale in Sudafrica 2010. Ma come è fallito la qualificazione mondiale 2010? Ma in Sudafrica il Portogallo c'era, e come? Che poi non abbia fatto tantissima strada, questo è un altro discorso, ma c'era, e sono passati solo 2 anni in fondo. Oh, tutto questo con molta bonarietà, sia ben chiaro, perché non è semplicissimo né fare telecronista né fare la seconda voce. Certo, noi evidentemente, noi utenti, parlo per me allora, io utente mi sono abituato negli ultimi anni alla qualità di Sky, magari un po' troppo strillata, ma alla qualità di Sky, e sinceramente questo ritorno al passato un tantino imbarazzante lo è. Angelo da Bari, buongiorno. Buongiorno signor Ganzini, buongiorno a tutti. Dunque, spettatori in meno, inizia a fare i proseliti il tipo arrabbiatissimo dell'altro giorno. A parte questa... mi sei pronto? Sì, dica. Sì, no, mi riferivo all'altro tipo, al tipo che l'altro giorno era arrabbiatissimo per seguire il calcio in TV. Ah, non le dico il carteggio, non le dico. Sono alla seconda mail e la più breve di un paio di centinaia di righe. E mi riservo poi in estate, dato che sono veri e propri trattati di filosofia, mi riservo una lettura estiva. Chiedo scusa per l'interruzione, dica. Ci mancherebbe. Senta, io chiamavo per le dichiarazioni che ho sentito di Prandelli e di Thiago Motta, improntate molto alla cautela, se non addirittura rasentando il timore. Ora, io vorrei capire, sono delle dichiarazioni di circostanza oppure ci sono reali, serissimi problemi per oggi pomeriggio? E secondo lei di che tipo? Grazie. Intanto di tipo di risultato, Angelo, perché se pareggi... No, cioè se non vinci non è che vai fuori, vai quasi fuori se perdi, però se pareggi ti complichi la vita e soprattutto arrivi sotto biscotto. Poi ci sarà tempo, ci sarebbe tempo eventualmente per parlarne, ma se va normale dall'altra parte, cioè se la Spagna batte l'Irlanda, arrivi a quel rischio. Quindi c'è innanzitutto un pericolo, ma c'è un problema di punteggio, e poi la Croazia è una signora nazionale e meno male che, come ha detto l'altro giorno Roberto Becantini, le tradizioni non giocano, le tradizioni non vanno in campo, perché se ci vanno, come per esempio è andata domenica, diventa un guaio oggi. Domenica l'Italia ha giocato, lo ripeto per l'ennesima volta, ha giocato contro una squadra più forte, campione d'Europa e del mondo in carica, ma che non batte l'Italia in un confronto diretto dal 1920, parlo di manifestazioni vere che contano, non di amichevoli. L'Italia e la Croazia, se parliamo di manifestazioni vere, non l'ha mai battuta, perché ha vinto solo un amichevole nel 1942 a Milano, quindi, e tra l'altro non ufficiale, e quindi capisce bene che di problemi ce n'è. Marcello Padova, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per aver chiamato. Senta, io volevo cambiare un attimo argomento e volevo tornare, se era possibile, sul discorso di Thiago Silva. Thiago Silva, certo. Sì, nel senso che io sono tifoso milanista, lo ero anche ai tempi di Colombo, Farina, gloriosi, tra virgolette, presidenti, e io sono dell'idea che a quelle cifre il giocatore è da lasciare andare, perché se no dopo ci si pente come ci si è pentiti per Pato. Certo, sono d'accordo con lei. E sinceramente non capisco come Galliani possa accettare di fare per 2 volte di fila nel giro di 6 mesi la figura di quello che va a tratta, trova una cosa e poi dopo viene mentito dal suo, diciamo, capo datore di lavoro. Ma ha smentito oppure tutta questa è una, non dico una commedia, ma insomma è qualcosa di concordato, perché insomma io vedendo sto dietro front di stamane o ieri pomeriggio eccetera, adesso ci ripensiamo, abbiamo preso un'offerta, vediamo cosa succede eccetera, secondo me dura ancora sta storia e non è detto che sia andata proprio così esattamente come ce la raccontano, per quel poco che può importare, sia ben chiaro. Mario Mantova, buongiorno. Buongiorno Garantini. Sì. Due cose. Uno, io penso che De Rossi nella difesa a 3 come centrale abbia trovato la sua collocazione ideale, sia per tempismo che per tocco di palla. Peccato che a Roma, se è Zeman, passerà un 4-3-3, perché praticamente 4-3-3, dovrà fare il centrale davanti alla difesa. Vedremo come si inserirà nel nuovo progetto di Zeman. Poi, per quanto riguarda l'Italia, io credo che lo stesso De Rossi stia coprendo leggermente Pirlo, nel senso che se l'azione riparte dal centrale difensivo, Pirlo bisognerebbe spostarlo leggermente più avanti per dare anche più qualità alla manovra offensiva. Questo indicherebbe che Thiago Motta andrebbe sostituito con un Nocerino capace di far legna e portare a casa, e poi un giocatore che è molto migliorato anche negli inserimenti, come lo è anche Marchisio. Credo che Thiago Motta sia un lusso come playmaker offensivo, credo. Mario, lei è la conferma, simpatica, piacevole, intendiamoci che siamo davvero 56 o 57 milioni di commissari tecnici, perché lei sta parlando di spostare delle pedine in mezzo al campo, e queste pedine si chiamano Di Rossi, si chiamano Pirlo, lo stesso Thiago Motta, cioè gente che, insomma, a lei o a me che le stiamo parlando a pallone non è che ci dà dei punti, proprio nemmeno ce li immaginiamo, no? E si è immedesimato nel ruolo di Prandelli, non avendo probabilmente mai... Non credo allenato, insomma, però sentivo questa cosa di spostamento di pedine, ci direttiamo a fare i vigili, no? Ogni tanto, i vigili in mezzo al campo. Oh, nella rubrica schermaglia di stamani di Antonio Di Poli, ho trovato tra le solite citazioni esilaranti e la ricerca di spunti divertenti, ho trovato una frase che non conoscevo, che è di Enrico Mentana. E che ci tengo a leggervi, perché risale a ieri ed è la spiegazione del perché la sera prima nel TG di La 7 non ci fosse stata una parola su Cassano. Ha detto Enrico Mentana: nel mio TG ieri sera ho scelto di non dare spazio a questa storiella, perché l'opinione di Cassano sui gay mi importa come quella di Vendola sulla difesa a tre. Tiago Silva non si deve vendere, scrive Jacopo da Vicenza. Gli fa ecco un altro ascoltatore con questo messaggio: peccato non sia firmato, ma è la solita commediola berlusconiana, il Milan vende il giocatore e lui, uomo dal cuor d'oro, alla fine lo salva e via con i voti. Beh, per la verità recentemente via i voti, non via con i voti, ma insomma in altri tempi invece sì, ha funzionato così. Che ci sia un sentore di copione, però questo mi sembra abbastanza probabile. Sentiamo Nicola Filippone, 14 giugno europeo. Sembra ieri. 14 giugno 1996, tre giorni dopo il 2-0 rifilato alla Russia, l'Italia ritorna ad Anfield per sfidare la Repubblica Ceca. Arrigo Sacchi, a gran sorpresa, decide di attuare un profondo turnover, lasciando in panchina 5 degli 11 titolari della prima gara, compreso Casiraghi, che aveva messo a segno la doppietta vincente. La partita si mette subito male. Al quinto i cechi passano con Nedved, anche se gli azzurri reagiscono prontamente, pareggiando al 18° con Chiesa. Ma al 35° la Repubblica Ceca si riporta in vantaggio con Babel e a quel punto l'Italia non riesce più a rispondere, finendo per rimediare una sconfitta che peserà come un macigno sul destino europeo dei vicecampioni del mondo. Eh sì, a proposito di cambi di formazione, quello fu una storica overdose di cambi di formazione che costò carissima all'Italia. Erano i tempi in cui Sacchi ormai declinava nettamente. Due numeri europei, uno è il 12 ed è il numero di Mario Gomez. Perché? Perché è la 12ª doppietta di un tedesco nella storia degli europei. Curiosità, dato che si dice sempre che insomma, la Germania è la grande Germania, è il Bayern di Monaco, di questi 12 doppiette tedesche agli europei solo 4 sono state segnate da giocatori del Bayern, che sono per l'appunto Gomez e prima di lui Podolski, Klinsmann e il grande, immenso Gerd Müller. Mentana migliore in campo, scrive un ascoltatore. Beh, insomma, non sarebbe la prima volta, se è per quello. In questa circostanza, un altro scrive: applausi a scena aperta per Mentana. Nulla da dire. In questa circostanza non era impossibile, secondo me, però comunque un discreto fegato ci voleva, ed è stata una scelta davvero esemplare da un punto di vista informativo. Marco Genova, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Tornando a Balotelli, insomma, penso che non abbia avuto un attacco di narcolessia, secondo me si è fermato per cercare il gol a sensazione, tipo quello che ha fatto imbestialire Mancini, che poi ha sbagliato di tacco, non so cosa ne pensa lei. Sì, sì, io penso che abbia ragione, lui stava già pensando a come esultare, cioè lui stava pensando di fare un colpo da come dice lei, insomma sono due le chiavi, lui stava pensando di fare una roba che facesse epoca e insieme che la cosa dovesse passare assolutamente inosservata, perché lui è talmente campione che insomma lui non esulta, e quindi ed è una scelta, intendiamoci, però lì forse era il caso di pensare prima a metterla dentro, poi dopo eventualmente i festeggiamenti più o meno plateali oppure sobri, anzi inesistenti come nel suo caso, ci pensi dopo. C'è una gentile signora che domanda le origini di, vuol sapere di più sulle origini di Gomez, adesso vado a ripescare il messaggio, perché dice non è possibile che un nome così sia tedesco, è nato, gentile signore, è nato a Riedlingen, non so se si pronuncia esattamente così, nel Württemberg, ed è di padre spagnolo, madre tedesca e padre spagnolo di Granada, ed è un discreto centravanti. Nico ha chiamato da Pordenone, buongiorno. Buongiorno Garantini. Dica. Volevo chiederle un parere, diciamo, tecnico, ma non sul calcio, ma sul suo campo, quello dell'informazione, perché mi è piaciuto il servizio che avete fatto su queste chicche dei commentatori Rai, no? È una cosa che mi ha sconcertato, forse non so se qualcuno l'ha notato, la partita inaugurale, quando Collovati era il commentatore, ha parlato di questo Lewandowski, che è un centravanti appunto della Polonia, che praticamente lui gli avevano detto che era un centravanti poco mobile, invece ha scoperto che invece è un attaccante di movimento anche. Allora io sono sconcertato dal fatto che queste persone, che dovrebbero essere dei professionisti, arrivino a una competizione così, dove noi tutti che non possiamo guardarci la Bundesliga ogni sera, ci piacerebbe insomma sapere qualcosa di più di questi nuovi volti. Questo non avrà mai visto una partita del Borussia Dortmund, immagino. Perché... Ma non lo so, Nico, io non, ripeto, non vorrei infierire da questi punti di vista. Io trovo più grave che l'altra sera Fulvio Collovati, che è un vecchio amico, insomma, mi sembra più grave che l'altra sera abbia passato 90 minuti a chiamare i russi sovietici. Ecco, questo mi sembra un pochino più grave. Poi se gli è scappato detto o meno che ha trovato Lewandowski un po' più veloce di come se lo immaginava, beh, insomma, questo fa parte più o meno delle osservazioni in libertà che in fondo in quel ruolo si è chiamati a dare, direi proprio per ragioni contrattuali. Dopodiché ci sono quelli invece che se la tirano da super documentati e che hanno sempre ragione loro dopo, no? Perché l'avevano detto prima, eccetera, invece lì secondo me è diverso. Sovietici, insomma, diciamo che è stato un po' più imbarazzante per il mio. Riccardo Ferrara, buongiorno. Pronto? Dica Riccardo. Non di Ferrara, di Pescara. Ah, Pescara, chiedo scusa. Sì, chiedo Pescara, scusa. Non si preoccupa. Senti, io volevo dire due cose. Una riguardo a Thiago Silva, che mi sa tanto di solita farsa, cioè Berlusconi poi alla fine interviene, risolve tutto, il buon padre di famiglia, e quindi si fa ancora un po' di pubblicità, anche se io sono del parere che una volta che si arriva ad una trattativa così avanzata sarebbe meglio togliere il giocatore, perché poi ogni volta che giocherà male, ogni volta che non darà il massimo, si dirà era meglio venderlo, era meglio... Quindi o non si intavolano per niente le trattative, o si fanno un po' più segretamente, oppure una volta che insomma che è arrivato a questo punto converrebbe venderlo. Detto questo, poi voglio dire un'altra cosa anche un po' velocemente. Sì, velocissimamente. Io non sono d'accordo con lei con la qualità maggiore del servizio di Sky. Io sinceramente ho ancora nelle orecchie il Cannavaro, quindi preferisco di gran lunga il commento della Rai, anche se con qualche inesattezza. Beh, quelle sono scelte di platealità, ho detto con meno strilli io personalmente, ma questi sono gusti molto molto personali, ci sarebbero ancora più gradevoli per parte mia, ma da un punto di vista di professionalità o di scelta di opinionisti, beh, insomma, ragazzi, sono le categorie, vediamo di non scherzare tra l'una e l'altra l'una e l'altra pattuglia. Basterebbe citare, non faccio nomi degli opinionisti Rai, anche perché sono tutte persone che, se non sono amici, sono comunque, si è fatta un pezzo di carriera insieme, ma tra loro da una parte e Boban o Bergomi dall'altra, ma proprio ci sono le categorie nel modo più assoluto. Diamo un turno di riflessione a Tiago Motta, scrive Andrea Busnelli in una mail. In un'altra mail invece Peter Pelucco sostiene di essere rimasto sorpreso dal fatto che io ieri ho criticato il fatto che, insomma, ho detto che Matteus si era ritirato un pochino troppo tardi in carriera, e cosa, lui mi ha mandato una mail in cui mi ricorda i successi che Matteus ha ancora ottenuto nel Bayern negli ultimi anni. Io controreplico che, nonostante Matteus, il Bayern di quegli anni è riuscito ugualmente a ottenere ancora qualcosa, ma per esempio in nazionale la figura che Matteus fece in quell'europeo, in cui, non so, ho trovato anche un ritaglio di un ritaglio di commenti: Matteus pronto per le sfide, scapoli ammogliati, eccetera. E in ogni caso la partita in questione finì 0-3, Germania-Portogallo 0-3, con tre gol di Conceição. Vi ricordate Conceição? Tre gol Conceição non li segnava neanche al giovedì, se giocavano contro i bambini, ma con una squadra che schierava Matteus libero. E Matteus vecchio, no? Il vecchio Matteus libero era ampiamente possibile. Grazie, sentite la musichetta. Grazie a Matteo Comes in regia e a Franco Piantanide in redazione. Ci risentiamo domani. Montante, la bici italiana dal fascino inconfondibile, una vera e propria mania. Vi ha presentato A Tempo di Sport.